Ora si narra. Miraggio della preda, totalmente annientati, benignità degli dèi. Thank you. Ora si narra che i Camavi e gli Angrivari siano immigrati nel territorio dei Brutteri dopo averli scacciati e totalmente annientati, in lega con le altre genti vicine, sia per l'odio causato dall'arroganza di quelli, sia perché attratti dal miraggio della preda, sia per una certa benignità degli dèi in favore nostro. Infatti, gli dèi non ci tolsero nemmeno lo spettacolo della battaglia. Dei Brutteri caddero più di 60.000, non in virtù delle armi e dei dardi romani, ma, cosa veramente magnifica, caddero per offrire diletto al nostro sguardo. Oh, preghiamo che rimanga e si conservi i popoli stranieri, se non l'amore per noi, almeno l'odio fra di loro, dal momento che, sovrastando dall'imperio la minaccia dei fati, nulla ormai di più prezioso la fortuna può procurarci che la discordia dei nostri nemici fra loro. Odio, amore, odio.